Non ho mai creduto a un cazzo di quello che dite. Ho passato notti in bianco a capire invece di dormire. Sono andato in depressione perché spesso è tutti contro se non dici ciò che gli altri vogliono sentirsi dire. Non ho mai creduto a un cazzo di quello che dite. Ho passato notti in bianco a capire invece di dormire. Sono andato in depressione perché spesso è tutti contro se non dici ciò che gli altri vogliono sentirsi dire, ok? Il mondo è il contrario. Quello che pensi te l'hanno insegnato. Pensi sia uno scoppiato, ti capisco. Apri la bocca e le dai fiato. Avresti ucciso Cristo se te l'avessero ordinato. Io qui non trovo spazio perché vivo nel disordine. Disobbedire al capo è sempre stato il mio ordine. Odio l'autorità perché non è in discussione per definizione. Quindi fanculo la Costituzione. Ci hanno detto che la vita è un 8-16 in un ufficio di un merda. Ma non crederci se siamo tutti uguali su questa terra di merda. Perché qualcuno è governato e qualcuno governa. Uomini incerti si fanno la guerra se si fanno manovrare da politici esperti che ti mettono l'uno contro l'altro per governarti meglio dall'alto. Ma io sono stanco, sempre stare zitto ora parlo. Se paghi le tasse non farlo, informati su quello che fanno e scopri che è tutto un inganno. Stampano soldi in un palazzo, il tuo tempo svanisce. Tu voti un tipo che mente nel mentre si arricchisce. Ma la gente non capisce, vive secondo i cliché. Usa fiat money, non si insospettisce. Io vorrei scrivere qualcosa meno triste, ma mi tocca vivere con gente che obbedisce. Gente che obbedisce, gente che obbedisce al capo. Obbedisce al capo, obbedisce al capo. Gente che obbedisce, gente che obbedisce al capo. Tu chiedi libertà ma siamo punto e a capo. Vado fino in fondo, no. Yeah, huh. Vado fino in fondo, voglio vederci chiaro. Galileo l'hanno ammazzato, la massa non l'ha accettato, no. Odio la massa, la maggioranza, la scuola, lo Stato, l'autorità come Albert Einstein. La gente sa, mazza con le tasse che finanzia. Non conosce la finanza, però ne parla abbastanza e forse è troppo. Io mi sono rotto di ascoltare un pensiero contorto. Corrotto, ti controllo, stai accorto. Yeah, è per il tuo bene, ne hai bisogno. Non ho bisogno di accettare questo pensiero infame, anche se è solo il riassunto di ciò che pensate e dimostrate. E non fermatevi alla base, se non risultate solo scimmie ammaestrate. E non distinguono il vero dal falso, e poi si fingono esperti del cazzo. Gente che obbedisce al capo. Che obbedisce al capo, obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Tu chiedi libertà ma siamo punti a capo. Gente che obbedisce al capo. Che obbedisce al capo, che obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Tu chiedi libertà ma siamo punti a capo. Gente che obbedisce al capo. Che obbedisce al capo, che obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Tu chiedi libertà ma siamo punti al capo. Gente che obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Che obbedisce al capo, che obbedisce al capo. Gente che obbedisce al capo. Tu chiedi libertà ma siamo punti a capo. Eccoci qua ragazzi, quest'oggi senza sigla, subito la canzoncina del Danielino, un mio caro amico, eccolo qua, ve lo presento. Bella a tutti regà. Grande che con questa canzone già ci ha spiegato in gran parte quello che intende. Abbiamo iniziato abbastanza male, direi. Guarda, abbiamo iniziato con la mia preferita. Abbiamo iniziato col piede sbagliato. No, guarda, con la mia preferita, quindi per me è benissimo perché ho accettato proprio di mandarla subito perché secondo me dà un messaggio proprio netto, diretto e bello anche. Guarda, sono d'accordo con te, è una cosa che forse quasi non ho mai fatto, quindi sono molto contento che ho messo questa traccia qui. Adesso la spieghiamo anche magari. Sì, no, guarda, ti volevo dire, la cosa che mi è piaciuta a me è che comunque, come mi dicevi prima, no? Cioè di questi temi non è che se ne parla spesso. Beh, no. Però, appunto, non è che parlarne e basta, poi possa essere, chissà, è importante anche saperne parlare, no? Beh, sì, sarei felice anche se ognuno dicesse la propria in merito senza, diciamo, senza né conoscenza né altro, giusto per far luce su quello che è l'argomento, ovvero come la nostra realtà, come la società, come funzionano le cose in generale. Sì, cioè quello che piace a me appunto anche da un punto di vista musicale è proprio questa capacità di scandire bene le parole, far capire ogni frase, e però allo stesso tempo parlare di un concetto non banale. Questo te lo riconosco proprio. Fa piacere, grazie, ma chi mi conosce nella vita reale sa perfettamente che sbiascico abbastanza e sono mega dislessico, quindi in realtà è bello che quando magari quando rappo questa cosa non si nota. Quando rappi no, non si nota. Guarda, io personalmente nel rap la cosa che apprezzo di più è quando capisco tutte le parole. Beh, quello sì, sicuramente sì. E niente, però parliamo del concetto, no? Cioè già dal titolo possiamo capire, come ne parlavamo prima, poi insieme. Io ho scelto proprio questa perché mi piace questa questa capacità, cioè questa idea, no? Di vedere il comportamento di massa anche dal punto di vista poi delle persone che, cioè gli intellettuali e le persone di spicco che in realtà poi anche indirettamente magari lo subiscono. Sì, se ti riferisci a Einstein come scienziato, ci sta, nel senso a me piaceva dedicare questa canzone a una persona. Beh, sì, scusami, non abbiamo detto che il titolo della canzone è Albert Einstein. È Albert Einstein, sì. Dicevo, mi piace, ho voluto dedicare appunto un pensiero che ho fatto quando ero parecchio arrabbiato l'ultimo anno e, per via del mio paese e, a questa persona che appunto a suo tempo, in modo molto più grande di me ovviamente e anche in modo molto più noto, ha disobbedito a quello che erano delle regole, insomma quello che era la società, e ha messo in luce le persone che non era come sembrava la realtà che vedevano. Lui l'ha fatto da gran punto di vista e ha fatto una scoperta abbastanza importante, leggermente importante. Però io voglio fare la mia piccolissima parte e dire che passare fondamentalmente lo stesso messaggio, ovvero non mi piace quando si obbedisce a un'autorità in modo da automa, insomma, non so come si dice. Modo cieco, diciamo. Sì, modo cieco, esatto. Dici il primo, beh non il primo, però uno dei più celebri che si è ribellato è proprio Einstein, no? Cioè se addirittura lui si ribella, cioè ci sarà una base, no? Un fondo. Sì, sì, poi oddio, il principio di autorità, ovvero quando tu prendi una persona e siccome è appunto autorevole diventa giusto a prescindere, non mi piace molto come concetto. Quindi non lo condivido abbastanza, però è importantissimo anche ascoltare le persone che hanno studiato molto notevolezza sul campo. Quindi per esempio un Nobel può prendere può dire una cazzata tranquillamente, anche se è un Nobel, ma sicuramente sarà, come dire, o improbabile o varrà la pena ascoltare almeno la sua opinione, che è molto importante. Quindi Gisi, obbedire tra virgolette, cioè non dare credito massimo a dei titoli, cioè semplicemente perché non è che te lo dice lo Stato, allora tu... Beh sì, alla fine parliamo un po' di quello. Sì, non è una cosa sempre, né utile né buona. Sempre andare alla fonte, no? Sempre confermare le varie informazioni, ipotesi. Beh sì, direi che la scienza rispetto alla religione e alla fede dogmatica ha funzionato abbastanza meglio negli ultimi anni. Per fortuna pure. E quindi sì, andiamoci. Diciamo, ci sentiamo un altro pezzo? Sì, diciamo. No, dico, andiamoci a sentire questo pezzo che. Dato che tu detesti tanto queste regole, che poi dicevamo regole autorecepite, no? E questo è il punto. Cioè, obbedire. Poi, sì, imposte da qualcuno, da una maggioranza, da qualcuno al governo. Appunto, che tu. Imposte dall'alto, insomma. Non essendo imposte, le dai per giuste così. Per. Beh, sì. Per assodato. Sì, ovviamente c'è differenza tra il non uccidere e il paga l'IMU. Certo, però... certo. Era questo, sì. Allora vai, andiamoci. E dai, io. Andiamoci a sentire cosa ne pensi di queste regole. Ascolto un disco di Cristo, poi lo imito. Se mi colpisco poi rischio un livido. Io non capisco allora come provare ancora un brivido. Vivi no, e allora vivi per bene. Timido, e allora poi vivi per bere. Ti dirò, non vivo come si deve. Dovremmo prendere tutti la vita per il sedere. Siamo esseri minuscoli, messi lì, casuali. Mostriamo i muscoli per non sentirci deboli. Causali del divario con gli altri. Meglio vivere più alti, che Cristo si è fermato a deboli. Ironico e incazzato, eccomi. Vomito ciò che ho realizzato, vivendo qui. Odio ciò che è scontato, tipo prezzo al supermercato. Tappezzo muri con frasi che ho pensato. Sono andato da un soldato e gli ho chiesto perché supporti questo. Ami la patria, qual è il senso? Il resto del creato, ma pensa al patrimonio il fesso e non dell'UNESCO, fa ancora la NATO. Da quando sono nato ho visto chiacchiere, maschere, più di una persona a volta a farmi crescere, ma nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Ma nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Ma nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Ma nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Ma nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Regole e leggi sono proporzionate inversamente al futuro e al progresso. Da sempre la gente pensa che sia l'opposto. Il fatto che siamo bestie è un altro discorso. Dai comandamenti agli emendamenti, regole su regole per popoli dementi. Come spiegare altrimenti che bisogna ancora scrivervi di non uccidere, altrimenti alimenti ogni giorno senza saperlo l'eccezione che rende tutto più bello. Lo Stato è un modello da imitare, ti prende, ti rende un militare, poi vi a sparare in un paese in cui è palese c'è gente a speculare, via si lotta per chi sta a speculare. I superiori ti prendono dalle superiori, ti lavano il cervello e poi ti riescono a inculare. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Qua nessuno ha mai capito il vero senso d'essere, e nemmeno io, ma almeno io non detto regole. Eccoci qua rientrati dopo quest'altra bella mina del Danielino. Insomma, Danielino, cioè in arte, scusami, Daniel Jump. Daniele Jump, sì sì. Scusami. Diciamolo, infatti. Poi sembra che mi chiamo Danielino. Vabbè, ti dicevo, quindi cioè, tu in questo pezzo ci parli delle regole, no? Cioè, che ne pensi? Cioè... Già il pezzo fa intuire, però spiegaci bene, spiegaci meglio. Ma prendiamo subito magari anche una frase a caso dal testo, perché intanto parla sempre dello stesso argomento. Quando parlo magari del discorso del soldato, che non capisco perché vada a uccidere gente, poi in realtà ci penso bene e dico ok, pensa che sia nel giusto, no? E quindi fondamentalmente questo, seguiamo delle regole pensando di fare delle cose giuste, ma molto spesso appunto non consideriamo il fatto che le regole possano essere, parliamo sempre di regole ovviamente imposte dalla legge, non regole che sia lavati le mani, ok? E dicevo, non consideriamo mai il fatto che queste regole possano essere un problema o deleterie per le persone. Faccio un esempio esagerato, estremo, il nazismo era tutto perfettamente legale, anzi, le leggi razziali, eccetera, eccetera. E non parliamo di migliaia di anni fa, parliamo di questo secolo, il secolo scorso. Beh, molto molto interessante. Sì, diciamo che poi tu dici le persone magari si sentono... No, beh, sì, sei stato chiaro, non c'è niente da aggiungere. Meno male. Più che altro ti voglio chiedere che pezzo ci vogliamo mandare allora adesso. Ma io vi farei ascoltare Al passo col tempo, che è un po' la canzone omonima del disco che è uscito, il mio primo disco. Anche a me piace molto, quindi... E dai, vai. Il morirò pensando a cosa scrivere, guardando la mole di frasi già scolpite e poi rimaste sole. La gente vuole solamente sentire merda applicata a quattro accordi, è questo ciò che vuole. Mi duole un po' constatarlo, mi rode come un tarlo il fatto che io non sia bravo a farlo. Odio il sistema, voglio modificarlo, punta plasma del casino che ho in testa, non a Monte Carlo. Di cosa parlo? Di quello che vorrei. Faccio le sei a parlarne fatto con gli amici miei. Ok, si è fatto tardi, dormi, riparti. La sveglia suona se la spengi, ritardi. E infatti ti svegli due ore dopo, che ore sono? Mi va tutta puttane perché non ho ascoltato un suono. Ci provo a comportarmi meglio, a fare il bravo, ad avanzare in un paese arretrato. E infatti sto un passo avanti alla mia donna. Lei non mi controlla, ma occhio alla minigonna. Vado in chiesa e poi bestemmio la Madonna. Manca altro, a si barca la mano, mollare mai. Se mai dovessi farlo, mi passeresti solo guai, lo sai. Quante cose buone ha fatto, l'Italia è un bel paese, non ci merita, ti ha fatto. No mai, se mai dovessi farlo, mi passeresti solo guai, lo sai. Quante cose buone ha fatto, l'Italia è un bel paese, non ci meritate. Vorrei stare al passo col tempo, m'alzo scontento ma sorridendo sempre. Ciao, non uso l'autotune, quello fallo tu. Sei più ridicolo di Grillo Nato Blu. In nome del profitto ci vendiamo pure a Belzebù. Il pezzo non suona da radio, non sei da TV. Omologhiamo le arti per collocarci nei posti più alti delle classifiche degli altri. Hai qualcosa da inventarti di diverso, dillo adesso. Se hai paura di sembrare un fesso, tra poco avrai un decesso. Ricordatelo spesso, che spesso si dimentica. Spreca un altro attimo per dormire la domenica. Io vivrò un tempo unico come quando nevica. Io vivo adesso e subito, per questo qualcuno m'evita. C'è un talento cubico per questo merito, quindi non giudico chi fugge in America. Se se ne va forse non servirà tanto, l'Italia è un bel paese, non ci meritate affatto. Se se ne va forse non servirà tanto, l'Italia è un bel paese, non ci meritate affatto. Vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Yeah. Al passo col tempo, vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Yeah. Al passo col tempo, vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Yeah. Al passo col tempo, vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Yeah. Al passo col tempo, vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Yeah. Al passo col tempo, vorrei stare al passo col tempo, col tempo. Al passo col tempo. Al passo col tempo, al passo col tempo, eh? Vorresti stare al passo col tempo? Sembra di intuire. Che intendi con stare al passo col tempo? Sì, effettivamente, vai, dici. Ma semplicemente il fatto che non mi piace, come dicevo prima, il non pensare da soli, da sé, e di conseguenza dare per scontato tutto quello che è poi. Quello che è oggi, i pensieri di oggi, la società di oggi. Quindi non voglio stare al passo col tempo. Cioè, il mio disco è un invito a disobbedire a quello che non è giusto, anche se sembra giusto, e di conseguenza, appunto, non stare al passo col tempo. Beh, mi sembra chiaro anche qui. E niente, allora, dopo tutti questi bei consigli che ci hai dato, che ti resta da dirci? Ma dopo questa serie di pippozzi sulla società, ne facciamo un altro velocissimo, dicendo che di conseguenza sono d'accordo per far sì che tutti si esprimano liberamente, e poi ovviamente questi concetti sono molto ampi da affrontare, magari lo facciamo in un altro modo o un'altra volta. Però fondamentalmente non adoro la censura, anzi sono contro la censura, e ci sono tante persone che sono censurate al momento, e di conseguenza il mio è un... voglio soltanto dire una parola fortissima nei confronti di queste persone che censurano o adorano la censura, ed è fanculo. Ah, ok, proprio così, diretto. E allora io sai che ti direi che abbiamo una canzone per voi. La canzone adatta, ma più che, sì, la sentiamo. Più che altro ti direi salutiamo i nostri cari amici. Ragazzi, grazie di averci ascoltato. Da il solito Tampillo Daniele Jump, raga, grazie a tutti e alla prossima. Poi vi linkerò il suo album sul podcast, che potete risentire sul sito Roots Radio. E niente ragazzi, noi vi salutiamo così. Gli sbirri e i piedi piatti, la madama, la finanza e tutti gli altri. Fuoco alle pattuglie, lapidate le ronde. Nessuno sentirà la nostalgia d'altronde. Odio gli infami, gli snitch, i serpenti. Odio te che sei ricco di famiglia e ti lamenti. Ti sputi in faccia, ti si sciolgono i denti. Rimani zitto sempre in fascia, altrimenti ho 5 ore in tasca, li devo ad un bangla. Però mi ha detto che un paio di birre me le manda. Bevo Negroni alle 3 del pomeriggio. Robby roba dice che potrei fare di peggio. Ho degli sbirri ma non sai di cosa parli. Fingo di essere turettico, poi vado ad insultarli. Ho la verità in tasca, sei falso. Ti spiegherei ma non me ne frega un cazzo. Io non voglio nessuno che mi dica che fare. Dici ma ti fa un culo, fa un culo, fa un culo. Io non voglio né culo, io non voglio né. Ora. Attacco un po' dove cazzo mi pare. E parlo un po' come cazzo mi pare. Mi pare un po' che vuoi fare mio padre. Tu porti a spicci e ti fai assicurare. Io sono quello che ti spiega come fa. Perché mezza strada fa, Blasco non aveva voglia. Il fatto è che è meglio una tipa che ingoia. Guarda, che un figlio guardia. Mi sveglio la mattina che ha tipo tutto ok. Poi mi fanno una perquisa che cercano i cazzi miei. Ma io non sono lei, signore. Io non ho niente da nascondere. Ho solo una parola da pompare, da diffondere. Fanculo, tu non sei nessuno. Se mi dici di mangiare digiuno, giuro che ti spaccherai al muro con la forza dell'odio. Ognuno a cui rubate il fumo. Fanculo,